Letture di Radio 24. Si dice che le società capitalistiche legate al consumismo, più che fornire beni ai cittadini, creino bisogni. Che possibilità hanno i consumatori di difendersi e di tornare a essere cittadini anziché clienti? Sono alcuni dei temi affrontati da Benjamin Barber nel suo libro Consumati, da cittadini a clienti. Per quanto potere possa avere il marketing, molto spesso la manipolazione trova nei consumatori dei soggetti consenzienti. Non è tanto l'efficacia della pubblicità, quanto la fragilità di chi compra a rendere la resistenza così problematica. In assenza di desideri reali e veri bisogni, spesso i consumatori sembrano invitare il produttore di beni e servizi a dire loro ciò di cui hanno bisogno. Lo slogan cinico dietro al quale si nascondono gli esperti di marketing più onesti quando vengono accusati di essere grossolani, dannosi e falsi, recita: «Non biasimateci, stiamo solo dando alla gente ciò che vuole». Tuttavia, quando gli scettici replicano «Siete voi però a dire alla gente quello che vuole», la risposta ingenua, ma che certamente contiene un seme di verità, è «Sì, d'accordo». Ma le persone vogliono sentirsi dire ciò che vogliono. Hanno bisogno che mostriamo loro ciò di cui hanno bisogno. La sfida è dimostrare che come consumatori possiamo sapere cosa vogliamo e volere solo ciò di cui abbiamo realmente bisogno. E che, per il resto della nostra vita, intendiamo vivere da amanti o artisti, discenti o cittadini, in una pletora di mondi della vita in cui il consumo non deve necessariamente svolgere un ruolo. Una volta recuperate le nostre vite come esseri umani complessi, con bisogni diversi, di cui solo alcuni possono essere soddisfatti dal consumo materiale, il capitalismo sarà obbligato a recuperare il proprio ruolo di sistema rispondente ai bisogni reali dell'uomo, anche se, come spesso è accaduto nelle fasi iniziali di crescita dei mercati, i profitti arriveranno solo in un secondo tempo, perché molti di coloro che hanno bisogni reali non sono in condizione di poter pagare il loro soddisfacimento. Questo genere di cambiamento sostanziale può aver luogo solo quando i cittadini riaffermano la propria sovranità democratica sull'economia. Prima però occorre individuare segnali di cambiamento all'interno del mercato che indichino il sussistere di condizioni favorevoli per l'applicazione di terapie più radicali. La storica Elizabeth Cohen descrive quella che definisce la Repubblica dei consumatori, evidenziando come la nostra realtà sia una tendenza che dura ormai da un secolo verso un intreccio tra cittadinanza e consumo. Per lei questo significa che non abbiamo altra scelta se non accettare e forse sfruttare questa tendenza, poiché è irrealistico pensare di poterla invertire. Ciò che più colpisce nella storia del movimento dei consumatori raccontata dalla Cohen è il fatto di non essere tanto la storia di consumatori che riescono a imporsi attraverso un'azione di mercato, quanto una storia di cittadini che agiscono per mezzo del legislatore per proteggere i propri interessi di consumatori e cittadini. Esiste tuttavia un secondo elemento del consumismo responsabile che non si sforza di coinvolgere il governo, ma si accontenta di usare la responsabilizzazione dei consumatori per raggiungere i propri limitati obiettivi sociali. Lo scopo non è coinvolgere il governo o fare affidamento su leggi che non sempre vengono applicate, ma indurre i produttori, con la minaccia di fargli perdere clienti, a cambiare certe politiche. L'idea non è rimpiazzare il mercato, ma sfruttarlo. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Benjamin Barber, Consumati, da cittadini a clienti, e in Audi Editore, 496 pagine, 21 euro. Letture di Radio 24. Razzisti, ubriaconi, attaccati solo al denaro. Sono questi alcuni dei luoghi comuni che spesso vengono associati ai veneti e che nel suo libro Cuore di Veneto lo scrittore giornalista Stefano Lorenzetto cerca di sfatare attraverso la sua storia personale e quella di alcuni personaggi rappresentativi della sua terra. Non l'Italia, ma il Veneto è una repubblica fondata sul lavoro. Se non si capisce questo, non si comprende nulla di noi. Gli altri pensano che lo facciamo per i soldi. Sono quelli che su Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, Unità, scrivono «sgay», persino nei titoli. Così estranei a questa realtà da ignorare la corretta grafia. «Sgay», abbreviazione degli austro-ungarici «Skei dei Munze», gli spiccioli in uso nel Lombardo-Veneto, palancai e polentoni, epiteto spregiativo speculare a terroni. Questo pensa di noi la maggioranza degli italiani. Si sbagliano. Fare soldi per fare soldi, per fare soldi. Mille fabbriche e nessuna libreria. È lo stesso frusto pregiudizio che Giorgio Bocca negli anni 60 attagliava ai calzolai di Vigevano. A pensarci bene, il lavoro non è nemmeno un dovere. Per noi veneti è il senso stesso del vivere. Solo attraverso il lavoro i veneti stabiliscono le connessioni con la realtà. Una forma espressiva, dunque. Gli skei, più che una gradevole conseguenza del lavoro, sono la misura del valore individuale. Charlie Chaplin diceva che il successo rende simpatici. A noi veneti è capitato l'esatto contrario. L'emancipazione economica ci ha resi antipatici. Il lavoro da queste parti non è mai stato considerato una maledizione divina, ma semplicemente una necessità e spesso una virtù, a cominciare da quello minorile. Qui nel Veneto cominciavamo a lavorare da bambini, per sentirci utili e anche per non sentirci soli, quasi mai per soldi e quasi sempre trattenuti nello slancio dai nostri genitori, anche quando le condizioni economiche familiari avrebbero consigliato l'esatto contrario, perché i padri e le madri, che erano ignoranti ma non stupidi, consideravano qualsiasi attività extrascolastica pregiudizievole al rapido conseguimento di quel benedetto pezzo di carta che ci avrebbe sottratti per sempre alle fatiche dei campi, delle officine, delle fonderie, delle botteghe artigiane. Volete giudicare noi veneti dal rapporto che intratteniamo con la fatica quotidiana, con la proprietà privata, con i nostri centri storici circondati da mura merlate, con lo straniero? Voi volete giudicare noi veneti del rapporto che intratteniamo con gli skei perché probabilmente ne avete sempre avuti, pochi o tanti che fossero. Se esiste una peculiarità che accomuna noi veneti, è proprio questo attaccamento quasi morboso alla produzione e ai mezzi di produzione, non agli skei. Per cui io credo a Giovanni Rana, il signore dei tortellini partito dal nulla come garzone di fornaio e diventato la star degli spot interpretati da se medesimo, quando mi dice «Io i soldi non li vedo nemmeno. È come se non li possedessi. La mia religione è sempre stata questa. Mai tenerli fermi. Metterli in azienda. Reinvestire in continuazione. Ecco il segreto dei ricchi che sanno creare ricchezza per tutti. Siamo stati totalmente assorbiti da questa avventura del creare ricchezza per tutti, dove fino a ieri c'era solo povertà per tutti. Tutto va meritato, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Nulla è gratis. Nulla è facile. Nulla è dovuto. Nulla è sicuro. È questa la benedizione della povertà, una dottrina radicata nel cuore della gente veneta. Abbilo ben presente, resto d'Italia, altrimenti abiterei a Milano. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Stefano Lorenzetto, Cuor di Veneto, anatomia di un popolo che fu nazione, Marsilio Editore, 304 pagine, 19 euro. Era il 3 dicembre del 1967 quando il chirurgo Christian Barnard effettuò in un ospedale sudafricano il primo trapianto di cuore al mondo. Quell'operazione riassume un secolo di progressi scientifici che aprono oggi la strada a nuove prospettive ancora inimmaginabili. La nuova frontiera è ora nei trapianti di mano e di viso. Era egocentrico, gran lavoratore, intelligente, ambizioso, insolente e arrogante. Agiva con la convinzione che qualsiasi cosa gli altri sapessero fare, era in grado di farla anche lui. Quando scoprì che un chirurgo russo aveva trapiantato a un cane una seconda testa, andò subito nello stabulario e ripeté l'esperimento, mostrandoci con fierezza il grottesco risultato. Eppure l'intervento non serviva a nulla se non a esibire il suo virtuosismo tecnico. L'uomo in questione è Christian Barnard, il chirurgo sudafricano autore del primo trapianto cardiaco. A tracciarne questo ritratto non proprio lusinghiero, soprattutto se si considera che fu scritto in occasione della sua morte, fu un vecchio collega, l'endocrinologo Raymond Offenberg. In effetti Barnard, uno dei pochissimi chirurghi a essere passato alla storia, era poco apprezzato dai compagni di lavoro. Non tanto per le capacità tecniche indiscusse, ma piuttosto per quell'insieme di comportamenti che gli antichi greci avrebbero definito ibris. Tanto per dirne una, quando il 3 dicembre 1967 espiantò il cuore da una giovane donna per trapiantarlo in un uomo di mezza età, Barnard era, almeno secondo le leggi di allora, un omicida. Non solo. Nell'ambiente erano tutti convinti che il primo a cimentarsi nell'intervento sarebbe stato Norman Shumway, che alla Stanford University di Palo Alto, in California, aveva passato anni a esercitarsi sui cani per poter essere in grado di effettuare il trapianto cardiaco perfetto. Era lui il chirurgo più pronto, ma era frenato da limiti etici e legali. Per la buona riuscita di un trapianto di cuore, infatti, l'organo da utilizzare doveva essere prelevato ancora battente, ovvero da una persona tecnicamente viva. A quei tempi, infatti, per decretare la morte di una persona si faceva riferimento al cuore. Si era ufficialmente deceduti quando questo cessava di battere. Va detto però che alcune innovazioni mediche stavano minando questa convenzione. L'introduzione della respirazione artificiale, il perfezionamento del massaggio cardiaco e l'invenzione della defibrillazione cardiaca avevano portato alla nascita di una nuova disciplina che resuscitava persone dal destino segnato, che non a caso fu chiamata rianimazione. I medici si trovarono così alle prese con una serie di casi mai visti prima. Alcuni individui colpiti da gravi lesioni cerebrali, una volta sottoposti a ventilazione meccanica, invece di morire o riprendersi, restavano in uno stato di completa incoscienza. Non avevano segni di attività nervosa, non rispondevano a stimoli esterni, non respiravano da soli. Questo nuovo stato fu battezzato coma dépassé, cioè al di là del coma, ma era evidente che si poneva un dilemma. Che fare di queste persone il cui cuore continuava a battere? La maggior parte dei medici riteneva che per loro non vi fosse possibilità di ripresa, essendo il cervello completamente danneggiato. Ma tutto era ancora incerto e la decisione di staccare la spina restava a discrezione dei medici. Insomma, l'idea di asportare un cuore ancora battente, anche se da una persona che la scienza medica indicava come morta, per impiantarlo in un altro corpo, significava andare oltre un limite. E non era una passeggiata. Ecco perché nessuno osava fare il primo passo, temendo polemiche, soprattutto nel caso, tutt'altro che improbabile, di un fallimento. Serviva una persona disposta a correre quei rischi e Barnard cascava a fagiolo. Non era dilaniato da scrupoli morali e scalpitava per mettere a frutto le competenze che riteneva di possedere. L'intervento in realtà non era così difficile, specie se paragonato, per esempio, alle operazioni per riparare alcune deformità congenite del cuore. Così, a differenza dei colleghi, Barnard non tergiversò e individuò subito il candidato ideale per il trapianto. Un droghiere di mezza età, Louis Washkansky, che oltre a un cuore completamente spompato, aveva reni e fegato pressoché fuori uso. Praticamente un caso disperato. Proprio quello che ci voleva per un intervento ad alto rischio, mai sperimentato prima, ma che certamente avrebbe fatto clamore. L'opportunità si presentò la notte fra il 2 e il 3 dicembre 1967, quando fu ricoverata una giovane donna in coma irreversibile dopo un incidente d'auto. Barnard prese l'iniziativa senza avvisare nessuno e solo dopo 5 ore di sala operatoria telefonò al direttore dell'ospedale comunicandogli l'esito. Intervento riuscito. Poco importa se Washkansky morì appena 18 giorni dopo di polmonite. Il primo trapianto di cuore fu presentato dai media come un grande trionfo della medicina e Barnard, forte del suo innato carisma, non solo non venne mai accusato di omicidio, ma divenne in breve una star internazionale. Ancora una volta il chirurgo sudafricano non perse tempo. Appurato che l'operazione era tecnicamente riuscita, il 2 gennaio 1968 tentò un secondo intervento. A ricevere un cuore nuovo di zecca fu stavolta Philip Bleiberg, dentista 59enne che sopravvisse per più di un anno e mezzo. Di fatto fu questo successo a dare il via libera ai trapianti di cuore. Ancora una volta con la complicità dei media, stregati dal fascino di quella sfida con la morte. A dispetto delle cronache del tempo, che parlarono di rinascita, indugiando persino sul recupero del vigore sessuale, la salute di Bleiberg era gravemente compromessa. Una fotografia ripresa da tutti i giornali, in cui sguazza allegro tra le onde del mare, ha retroscena poco noti. Testimoni riferiscono che Bleiberg fu trasportato in acqua di peso, giusto il tempo di scattare la foto, e poi subito strappato ai flutti. Solo recentemente, decenni dopo l'intervento, si sono scatenate le polemiche su quella sfida più etica che medica. Secondo Offenberg, Barnard partì troppo presto, prima del segnale di via, quando lo stato delle conoscenze era ancora limitato. Sull'onda dell'entusiasmo e presi dallo spirito di emulazione, molti chirurghi si cimentarono in trapianti di cuore, un centinaio solo nel primo anno, per i quali non erano tecnicamente preparati e senza aver risolto il problema cruciale della possibile crisi di rigetto del nuovo organo. Ma un merito a Barnard, bisogna riconoscerlo. Fu grazie a quell'atto di tracotanza che la comunità medica si decise in tutta fretta ad adottare criteri comuni per la definizione di morte cerebrale. Nel 1968, infatti, un comitato di esperti dell'Università di Harvard pubblicò su JAMA, una delle più autorevoli riviste mediche, il rapporto Una definizione del coma irreversibile, poi diventato la base di tutte le legislazioni nazionali, in cui si stabiliva quando è lecito interrompere la rianimazione perché il paziente è clinicamente morto. Nel rapporto veniva definita la sindrome della morte cerebrale. Il soggetto non dà segni di recettività, non presenta alcun movimento, non respira spontaneamente, non conserva riflessi e l'elettroencefalogramma è piatto. Criteri che si mantengono quasi invariati ancora oggi. Barnard, dal canto suo, divenuto sui giornali il profeta dei cuori e il mago dei trapianti, smise invece di operare, anche per via di una brutta artrite reumatoide, dedicandosi alle conferenze e soprattutto alla bella vita e alle belle donne. Come la seconda moglie, Barbara Zöllner, ricchissima e appena 19enne quando la sposò nel 1970. O come la terza, Karin Setzkorn, di una 50ina d'anni più giovane di lui. Non si sa invece chi fosse al suo fianco quando nel 2001 si spense a Cipro, ai bordi di una piscina. Lo uccise un attacco d'asma, ma tutti i giornali scrissero che aveva avuto un infarto di cuore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo In gara con la morte, a firma di Marta Erba e pubblicato da Focus Storia di dicembre.